italiano imprenditore qua ha assunto tanti tedeschi, l'ha fatto biondo, te lo ricordi quella scena? A quello che era con la moglie per caso. Sì, esatto, era, stava mangiando in questo ristorante, non so cosa l'aveva detto, era un mezzo razzista questo. E invece quello era un imprenditore carico di soldi. Insomma, ci sono tanti italiani in Svizzera che si portano i soldi, o a Monte Carlo, quanti giocatori, quanti personaggi attori o cose del genere che hanno la residenza, piloti di Formula 1 italiani, parliamo, tutti la residenza a Monte Carlo, con le Cabri attore, vabbè, Alboreto è morto, facciamo nomi così qualsiasi, ma ci sono un sacco di personaggi importanti, famosi, pubblici che hanno la residenza a Monte Carlo. In Svizzera però sinceramente a me non è che mi sia piaciuto più di tanto, li vedevo un pochettino, un po' strani, dai, un senso di superiorità rispetto a noi, ci consideravano tipo quando vedevi il ring, arrivavi, la stessa cosa, non, un po' meglio, però un senso di schifetto, schifatto, dai, quando ti vedono così, quando entri in qualche posto. Mi ricordo che sono andato con mio fratello in questo centro commerciale, cacchio, camminando, guardando, c'avevamo lo zainetto, come si va quando vai fuori, a Lugano questo è successo, girando così, ma noi guardando tranquilli, ci mancherebbe, mi metto a toccare a casa, sembravamo ladri, sempre appresso queste guardie giurate, seguendolo, ci fate giurito, ma che cacchio vogliono qui? Sì, poi vai a guardare bene, e quando vengono a lui li dobbiamo pure arrestare perché se ne portano via la sabbia e quelle cose lì, oppure distruggono anche i monumenti, come è già successo, capito? Ogni paese sai com'è. Sì, lo so, aspetta un attimino in bianco, lasciamo, vediamo se qualcuno nel frattempo vuole entrare, attenzione, canale 10 che vuole entrare, nulla, riprendi tu Gianfranco. No, ma purtroppo, guarda, gli svizzeri, anche i francesi, a me non piacciono i francesi, è una razza, non per generalizzare, ma non mi sono mai piaciuti, ma troppo naturalisti, senso di superiorità verso gli italiani, gelosi. Allora, i tedeschi che hanno, ci abbiamo tanto da imparare dai tedeschi, noi come modo di comportarsi, come cercare di sistemare le situazioni, ci ammirano, ci hanno un senso di ammirazione, i francesi invece hanno un senso di invidia, è quello che io non sopporto, è per dire, su certe cose noi dobbiamo solo imparare dai tedeschi, come, non dico come tecnologia, parliamo come servizi, organizzazione, eccetera eccetera, vengono, loro sono innamorati dell'Italia, i francesi hanno questo modo di fare, cacchio, geloso, invidioso, eccetera, che loro sono superiori in tutto, mentre gli spagnoli sono come noi, loffi, diciamo, furbacchioni. Sì, nonostante anche i francesi si possono definire un paese mediterraneo, ma sai, di lì c'è, dall'epoca di Napoleone, c'hanno questa forma, come detto, che si credono molto praticamente, e c'è anche un nome, gli studiosi la chiamano la grandeur française, che loro sentono grandi, capito, perché avevano fatto un impero, peccato che poi l'hanno pure perso, e quindi sai, l'hanno un po' mantenuto, ma non è che ci abbiano grandi cose da per cui gonfiarsi, neanche loro, ogni paese ha le sue, poi c'è poco da fare, e mi sa che quelli che ne sono più consapevoli sono proprio i tedeschi, che quando è necessario sanno pure chiedere scusa, ecco, tutto lì. In francese invece, ma chiedere scusa non ce li vedo molto. No, assolutamente, ma guarda, se tu vai in Corsica, io ci sono andato tanti anni, amicizie, gente che ci ritroviamo, anche se sono almeno 4-5 anni che non ci, no, di più, fai 6-7 anni che non ci vado più in Corsica, loro, tra di loro, i francesi non li quando una volta era successo un fatto, adesso non sto qua a raccontarlo, è una cosa così di un po' delicata, eravamo, no, lascia stare, quelli sono francesi, non sono come noi, mi ricordo le parole, mi ha detto questo, quelli sono francesi, non sono come noi, il proprietario di questo residence, di questa cosa, e mi ha detto lasciali perdere. Beh, vabbè, quello è noto, i corsicani non li possono, li considerano quasi occupatori, loro forse si vorrebbero indipendenti o comunque cose di questo genere, non è una una novità quella. A volte so da la gente che fa, si scappa spesso la rissa con quella gente lì. E quindi poi i francesi sono anche molto, diciamo tutti un pochettino falsetti, se certe cose sono, possono essere anche lonfi, loro sono un po', sai, se c'è da fare devi guardare le spalle. Sì, l'ha detto benissimo, basta vedere cosa è successo in Libia. Sono invidiosi, egoisti, ingordi e opportunisti, perché loro non gliene fotte niente, ma anche nell'esercito, quando fanno attività di coso, di salvataggio, di cose del genere, i francesi sono malvisti da tutti, perché lo fanno tutto per uno scopo personale di coso, al contrario degli italiani che in certe situazioni sono pure scemi, che basta vedere il discorso degli immigrati, loro invece niente, non gliene fotte nulla, ricordi quelle scene che prendevano ce le ributtavano in Italia, ma dopo che entravano dal loro territorio, è una cosa assurda, ma sono tutti particolari, loro cercano di essere indipendenti da tutto, nel senso anche nelle piccole cose, dall'aeronautica, dalla televisione, cioè hanno sistemi loro, e qualunque cosa, diciamo più o meno tutti gli stati siamo collegati con qualche altro stato che magari c'ha una tecnologia, come si chiama, collaborazione, parliamo nelle cose spaziali, del coso, mentre i francesi se ne escono e cercano di fare tutto proprio di proprio conto, pur sapendo che quello che hai fatto è inferiore a quello che potrebbe essere quando ci sono quei consorzi, per dire, quando hanno fatto l'Eurofighter, per fare un esempio, o consorzio per il sistema colori, quando tutti erano qua loro ci hanno fatto il SECAM, quando ci hanno fatto l'aereo Rafael anziché fare l'Eurofighter che gli costava molto meno, quando ci sono gli aerei, anche se devo dire gli Airbus sono degli ottimi aerei, tutti si servono dagli americani, dai Douglas, McDonald's, eccetera eccetera, loro invece hanno voluto fare tutto di testa loro, gli aerei, i razzi, i missili, tutto per conto loro. Sì, è proprio quella cosa che ti dicevo prima, la grandezza francese che poi loro senza gli americani, con cui non ci vanno d'accordo tra l'altro, sarebbero stati ancora con i tedeschi in casa, quindi poi su certe cose ti meraviglia, ad esempio la guerra d'Algeria adesso, in una situazione del genere la Francia avrebbe dovuto capire che quell'epoca oramai era passata, se non altro perché avevano avuto i tedeschi in casa che li avevano presi per tanti anni, e invece loro hanno fatto queste cose che hanno fatto anche a casa loro i tedeschi, quindi dice ma come, da vittima diventi poi carnefice e fa le stesse cose. E questo anche nel Vietnam, perché prima degli americani sai benissimo che in Indocina c'erano i francesi, anche lì hanno fatto casini e ne hanno preso di santa ragione anche loro, e al punto che se ne sono dovuti andare con l'acqua tra le gambe. E ogni paese ha i suoi pregi e i suoi difetti, purtroppo è così. Guarda, la Francia, non per dire, è il paese più colonialista dei tempi moderni, dove è coinvolto in più guerre di qualunque altro paese al mondo, cioè noi parliamo di americani, di cosa, però se consideri gli americani, a parte Iraq e Afghanistan, grossi problemi diciamo di fare guerre, conflitti, diciamo sono da tutte le parti, però al contrario dei francesi sono invischiati in Africa guerre da decenni, da 40 anni, 50 anni, vai in Congo, vai in cose, in Guyana, vai, da tutti quei paesi di mezzo francofoni che poi vogliono loro la moneta loro, vogliono tutto un giro strano, non so se hai visto, se hai seguito il report, cosa combinano questi, non dico maledetti perché è dirli poco, cosa hanno tutta la discapito della popolazione, il Congo è uno dei paesi più ricchi di cose, di risorse auree e risorse di rame, eccetera eccetera, diamanti, potrebbero vivere, loro ci mettono un presidente della Repubblica messo da loro, corrotto, eppure la popolazione è la più povera del mondo. Sì, ci sono queste cose in questi paesi allucinanti, che dimostra a volte che la ricchezza non per forza crea felicità, perché sono degli oppressi, solo che neanche se ne accorgono. perché ci sono sempre i soliti opportunisti, i signorotti della guerra, che sono foraggiati un po' da uno, un po' dall'altro. Quindi non se ne esce più da questa situazione, ma prima o poi penso che queste cose per forza dovranno cadere, perché già ci abbiamo tanti esempi che da soli oramai non si può più fare niente. Se non si è uniti, il prossimo mondo, in poche parole, sempre che regga, dovrà essere fatto di persone che comunicano, di persone che collaborano per i medesimi fini, perché se no sarà la fine. Sarà quasi un'imposizione che questa volta non ci viene né da Stati né da enti né da nessuna organizzazione, ma ci viene dalla sopravvivenza. Se vorremmo vivere dovremmo iniziare a imparare a collaborare uno con l'altro per il vero bene comune, perché se no non possiamo già chiudere baracche e burattini, perché certe cose da soli non si possono fare. Scusate, ma Gianfra al telefono. Sì, ok. Riecomi Gianfra, era già roba breve. Quindi capisco, è così. La gente può pensare che questa la situazione che abbiamo passato sia il massimo del massimo. Secondo me è solo l'inizio di un lungo periodo di casini di tutti i tipi, perché la natura oramai ha alzato gli scudi, e quando si muove la natura non è che lo faccia in piccolo, lo fa in grande, non ci sono i confini, né nazioni, non c'è niente, va dritta e colpisce. Una cosa bella che stiamo toccando cose che non si devono toccare, inutile parlare di questo buco d'ozono, effetto serra, stiamo toccando cose con dei mezzi, con delle tecnologie che non si dovrebbero toccare. Quando io vedo, sento questi terremoti, queste cose strane, cambiamenti climatici, molti di questi sono dovuti a queste attrezzature che utilizzano a scopi militari come prove eccetera eccetera, quel sistema americano che c'è in Antartide, non so se ne hai sentito parlare, che è quello lì che ti cambia il clima, ti crea terremoti eccetera eccetera, quel sistema di onde a bassa, come si chiama, a bassa frequenza, potenze esorbitanti che ti creano delle cose da fantascienza. Vabbè, a prescindere da queste cose, il buco d'ozono c'è e si vede, come se si vede, tutte le altre cose ci sono, quindi semplicemente di lì non diventa più una questione di opinione, sì sono d'accordo, no non sono d'accordo, eccetera eccetera. Al dunque, cioè, o meglio, se si arriva al dunque, se sta arrivando al dunque, non è che puoi dire ah sì adesso ho capito, cioè, no, non c'è niente da capire. Se pare che infatti in realtà abbiamo già superato quello che tecnicamente si chiama il punto di non ritorno, quindi punto di domanda grande, non è che questi eventi che hai creato poi li rimedi così con uno schioccare di vita. Chissà cosa succederà. No, ma c'è di più. Io sono sempre terrorizzato relativamente, perché tanto non ci possiamo fare niente, bisogna conviverci. Tutti questi esperimenti che stanno facendo al CERN, a Ginevra, quei cacchi acceleratori di particelle, che lì stiamo lavorando con delle potenze spaventose, che basta che sbagli qualcosa, tipo quello che è successo al CERN, mi dirai, i russi era un impianto vecchio, obsoleto, non c'era manutenzione, non c'era niente, però cacchio, tu quando tocchi qualcosa e magari sbagli qualcosa, lì stiamo parlando di azioni nucleari, di cose fantascientifiche a livello di potenze fuori da qualunque logica, e se fai qualcosa cosa succede? Già quello HRP, quello sistema americano che c'è di lì, ho visto dei programmi a riguardo di quello che possono creare la fantascienza. Poi non sappiamo niente dei cinesi, adesso i cinesi stanno ricostruendo due centrali nucleari che non si sa cosa servono, perché è una tecnologia obsoleta, vecchia, e non c'è logica, non si capisce a cosa serva, per cosa lo stanno facendo questa roba qua, perché ci ci sono delle centrali di più evolute e loro stanno ritornando indietro al passato e non c'è una spiegazione scientifica, dice come mai, come per dire io ho la macchina che va a motore a scoppio con certe condizioni e mi metto ad andare con motore a vapore, e loro stanno facendo così e non c'è una spiegazione logica. Ma dove c'è un interesse la spiegazione c'è sempre. Però io sono sempre per scienza e conoscenza, quindi non mi affido a molte trasmissioni televisive, anche abbastanza fantasiose, ma proprio alle fonti ufficiali che riguardano gli ambienti scientifici. Tu parli del CERN, il CERN sta facendo delle ricerche sui neutrini praticamente, quindi c'è questo cerchio, diciamo, chiamalo così impropriamente, è un cerchio molto grande, tra i più grandi del mondo, poi c'è anche uno degli Stati Uniti, se non ricordo male, che imprigiona praticamente i neutrini, e infatti è sottoterra al Monte Bianco, Monte Rosa, se non lo ricordo, in cui c'è praticamente questa apparecchiatura unica che riesce a trattare i neutrini, che sono delle piccolissime particelle che provengono dallo spazio e attraversano da parte a parte il pianeta. Quindi sono cose naturali che però per studiarle ci vogliono quella apparecchiatura, ma non c'è niente di nucleare, come certi vorrebbero dire. Il nucleare significa anche la scienza, diciamo, ma non stiamo parlando di bomba nucleare, neanche di materiali radioattivi, ecco. Invece, il nucleare comprende tante tecnologie. No, non sto parlando del nucleare, io tra l'altro non sono contrario al nucleare, cioè sempre per produrre energia a basso costo, io sono sempre stato favorevole, naturalmente utilizzando tutti i sistemi possibili e immaginabili di sicurezza. No, di lì si parla di altre cose, di lì si parla di energia, di calore, cioè temperature di miliardi di gradi, di campi elettromagnetici per creare queste cose qua, accelerazioni di particelle, cose del genere. E le stanno studiando, però siccome stanno lavorando con delle potenze spaventose, dei campi magnetici spaventosi, non si sa cosa che succede lì. Quello del CERN attualmente è il più grande d'Europa, il più grande acceleratore di particelle del mondo, negli Stati Uniti e anche in Russia e forse anche in Cina ne stanno costruendo un altro, ma questo è sotto le montagne, sotto le Alpi, non so, mi sembra c'è a 36 km, una cosa del genere, almeno come mi ricordo io di lunghezza, questa di circonferenza, non di lunghezza, ma sono cose, tecnologie, studi avveniristici, non si sa come potrebbe andare a finire se succede un guaio, è quello che è la paura mia, se succede qualche problemino di qualcosa, cosa ne sappiamo cosa succede? No, guarda, di lì non ci sono paure, cioè non è roba che crei minacce particolari, anche se capita un guasto, niente, si ferma la circolazione e basta. I problemi sono ben altri e già lo sanno, ma quali sono i problemi, non sono certo queste cose che tentano di portare l'attenzione da altre parti, ecco. Purtroppo le cose che stanno avvenendo si sanno. Tra l'altro, proprio ieri ad esempio, tu mi hai detto che si è favorevole al nucleare, io sono assolutamente contrario, e ha fatto non bene, benissimo l'Italia a sbarazzarsene, e nonostante se ne sia sbarazzata, le scorie nucleari rimangono un gigantesco problema. Guarda cosa sta capitando in Germania, per un punto in cui le hanno messe puntualmente secondo la legge di Murphy, non la conosci, qualunque cosa fai anche per il meglio si crea inevitabilmente qualche grave problema, e di lì l'hanno messo in questa galleria dove c'è un altro contenuto di sale che velocemente pare che abbia corroso i famosi fusti che contengono queste sostanze radioattive, e quindi si è creata una sorta di pericolo e a tutt'oggi non sanno come uscirne. Quindi noi di scuri ovviamente ne abbiamo, non avendo il nucleare, ne abbiamo molto di meno, tieni presente che ancora credo l'ex centrale che c'era di lì al adesso non mi viene in quella località, la stanno ancora demolendo, perché occorrono anni prima che si attenui il livello di radiazioni. Però c'ha dei costi pazzeschi. C'era una comparazione scientifica che dice che il nucleare è il meno costoso, quindi come hai pensato tu sicuramente era al massimo della convenienza. In realtà non è così, perché la gente si dimentica di dire: certo, l'energia mi costa poco, ma quanto mi costa poi se devo smontare una centrale atomica? Tantissimo, ma veramente tanto, fa schizzare i costi in una maniera pazzesca. E questo anche per le manutenzioni, loro calcolano solo il costo dell'energia senza tutto quello che c'è attorno per favorire il nucleare, ma il nucleare ormai lo stanno abbandonando tutti. Tu pensa che l'Italia, che non ha il nucleare, ha un fortissimo pericolo, una minaccia enorme a causa sia delle stazioni francesi, sia delle centrali slovene e anche qualcuna che c'è lì al confine col coso lì, adesso non mi viene. Comunque, queste stazioni, queste centrali atomiche hanno già perdite e ancora non ci hanno messo mano a ripararle. Quello è un pericolo. Noi ci abbiamo, senza saperlo, praticamente situazioni di gravissimo pericolo e facciamo finta di niente. Con le Svizzere, ci sono anche in Svizzera le centrali nucleari, però io dico una cosa, stanno studiando la fusione a freddo, senza queste preoccupazioni che ci danno, però siccome noi siamo nel progresso e siamo abituati a certe cose, vogliamo il telefonino, vogliamo che la corrente elettrica non manchi mai, che l'acqua non manchi mai, non ci sono per il momento delle possibilità, per cui devi arrivare a un compromesso, è come quello che dice: io c'è freddo o c'è caldo, mi voglio accendere l'aria condizionata, cacchio, però consumi energia elettrica per accendere l'aria condizionata, eccetera eccetera. Se fosse possibile avere energia pulita, purtroppo non esiste ancora, a parte il solare, l'eolico, però stiamo parlando di potenze molto ma molto limitate, per fabbisogni di nazioni ce ne vorrebbero miliardi di queste di queste centrali solari o cose, per cui non c'è per il momento altro sistema. Se tu vuoi energia, o te la paghi un bel come la sta pagando tanto l'Italia, oppure te la produci, è l'unico sistema attuale a basso costo. Tu mi dai le scorie? Sì, certo, le scorie è il problema più importante di tutto, prima o poi le metteranno fuori nello spazio, io sono sicuro di quello, troveranno il sistema di qualche navicella a caricarle e buttarcele via nello spazio, o in qualche fondale marino, la fossa delle Marianne, con qualche contenitore via mare di qualche materiale che riesce a resistere 100 anni, 200 anni, perché è talmente corrosivo il materiale radioattivo, che per il momento non c'è una durata più di qualche decennio, 30 anni forse massimo riescono ad arrivare. Però tu vuoi l'aria condizionata a casa, e per cui cosa vuoi fare? Te la paghi a 100 euro a kilowatt, oppure preferisci pagarla a 1 euro a kilowatt? E questo è il discorso. Peccato che questo discorso è inficiato da una condizione un po' strana. Guarda, ti faccio una domanda semplice. Tu sai che la Cina è un paese super industrializzato e tremendamente inquinato anche, però secondo te chi consuma di più dal punto di vista energetico? Anzi, chi ne produce di più, l'Italia o la Cina? Cosa vuol dire? Chi produce più energia, l'Italia o la Cina? L'Italia o la Cina. Ma non lo so, rapportato alla popolazione sicuramente molto di più l'Italia, decine di volte di più, però rapportata alla quantità fisica, diciamo, in megawatt, la Cina ci fa 10 a 3. Assolutamente no. Noi distacchiamo di parecchio la Cina come potenze di produzione, lo sai perché? Perché noi abbiamo centrali fatte nel 1930 e anche prima, e anche nel 20, che producono energia idroelettrica in quantità gigantesca praticamente, e queste centrali sono in funzione da anni, anni, anni, anni, anni, sempre ininterrottamente, ci hanno assicurato quantità di energia enormi. Quindi l'energia sì, noi l'importiamo, però è per le automobili, per altri utilizzi, ma per l'energia elettrica piano piano, guarda, anche ipotizziamo il gas oramai, ma anche quello con le nuove tecnologie penso che si riesca a superare. Quindi l'Italia, diciamo, è la più fortunata, penso, in Europa, perché ha delle centrali idroelettriche con potenze enormi, e per quello che può assicurare un sistema di energia particolare. Certo, in certe zone dobbiamo importare questa energia dalle centrali francesi o anche svizzere, ma non so se ci sia ancora questa cosa, perché poi con l'avvento dell'energia anche solare e eolica, che sembra così, ma con la nuova generazione di pannelli può fare la differenza. La cosa è un'altra, che noi siamo fissati nell'alimentare le città, che è un errore, ma lo sai quali sono le città più illuminate al mondo? Uno pensa subito al Giappone, a quelle lì. Se tu guardi dal satellite, dalla stazione spaziale, tutta la parte della pianura padana, della Lombardia, di Milano, eccetera, è una cosa spaventosa, e questo meraviglia, capito? Insieme a noi ci sono gli Stati Uniti, certe città degli Stati Uniti e altre ancora. Per fare questo occorre energia, quindi bisognerebbe diminuire queste cose che non sono proprio il massimo, ecco, come utilizzo, cioè razionalizzare l'utilizzo. Assolutamente d'accordo. Guarda, ieri proprio dopo, vabbè, concludo con il discorso idroelettrico, Mari, era così quello che dicevi tu, il discorso idroelettrico cinese è all'avanguardia mondiale, hanno fatto delle mega dighe che se le sognano in qualunque parte del mondo, che sono grandi quanto le regioni italiane, con le superfici di bacini allucinanti, laghi artificiali creati, hanno delle dighe spaventose di produzione di energia, non ce n'è uguale al mondo come ce le hanno idroelettriche e cose. Noi siamo all'avanguardia in Europa sul solare, perché abbiamo una posizione, diciamo, più a sud rispetto a tutti i paesi europei, sicuramente nell'eolico vari i paesi del nord, paesi Norvegia, Danimarca, tutti quelli sono superiori a noi. Parlando di ottimizzazione dell'energia, assolutamente d'accordo con te, siamo arretrati di decenni. Io ieri sono passato nella galleria di Sassari, quella di la classica galleria, quella più grave, adesso l'hanno divisa in due, che stanno facendo continuamente dei lavori. Ci sono, io stavo parlando ieri proprio con un'amica che eravamo insieme e stiamo attraversando la galleria. Con la galleria, a memoria mia, dovrebbe essere stata fatta nei fine anni 70, se non sbaglio, non mi ricordo esattamente. Da quando è stata fatta ci sono ancora le lampade alogene ed è una vergogna, stanno consumando energia elettrica da decenni, per non dire 40-50 anni, ancora con le lampade alogene. Se tu vai in quella galleria che c'è di fronte a Monserrato, dove c'è la camionabile, ci sono i fali a LED, la notte abbassano la potenza perché non serve avere tutta quella luce così forte. Nelle gallerie, a parte che sono tutte nere, pinghinose, eccetera, ci sono ancora i fari alogeni, e questo è un punto dell'iceberg. Figurati tutte le strade di Sassari e tutte le grandi città, la maggior parte sono ancora i fari a coso, ad alta pressione, non hanno fari a LED, non esiste la zona di Sassari, l'unico pezzo a LED è il pezzo di fronte ai vigili del fuoco, l'attraversamento pedonale e in via Milano, avevo visto i fari a LED, tutte le altre parti ci sono ancora quei fari di 30 anni fa. Avanti a te, Gianfranco. Sì, è appunto quello che ti stavo dicendo, è la razionalizzazione che non esiste. Guarda, probabilmente chi le ha fatte molte centrali alla Cina è stata l'Italia. Tu figurati che la prima centrale nostra è datata, credo, nei primi del Novecento, la prima centrale idroelettrica che ha fatto sbalordire il mondo. Lo stesso Edison, che era inventore, diciamo, della corrente alternata, si è complimentato con l'Italia. Quindi non è che ci fossero altre nazioni in grado di fare queste opere, anche perché per fare queste opere poi ci vuole la materia prima, che è l'acqua, che l'Italia, lo sai, dai tempi dei Romani, in quanto acquedotti, sistemi idrici, può insegnare tante cose. Gli americani ci stanno provando adesso, facendo un coso che costa delle cifre per noi impensabili, e vorrebbero fare come i romani. ero più grande ancora, ma mi pare che i soldini le stanno finendo senza avere concluso grandi cose, perché già lo sai, i romani quando si mettevano a fare le cose erano micidiali, tanto è vero che l'acquedotto di Roma funziona ancora tramite le condotte romane. Per l'energia sì, però è una cosa locale, capito? Non possiamo portare esempi di malgestione, perché se fosse a risolvere tutte le malgestioni italiane, allora anche la Germania si dovrebbe preoccupare, perché il nostro PIL sarebbe alle stelle, che non ce ne frega niente, come al solito. Noi in Sardegna, non so se lo sai, ma penso di sì, noi siamo indipendenti a livello energetico, addirittura la esportiamo noi l'energia, ne abbiamo in abbondanza. Quando è successo un blackout nazionale, mi sembra nel 2008, e si è bloccato tutta l'Italia, si era bloccata per un blackout perché c'era una stazione di controllo che serviva, comandava tutta l'Italia, tutta la penisola, a parte forse la Sicilia, adesso non mi ricordo, e noi siamo rimasti l'unica regione che era indipendente, non aveva niente da fare. A riguardo, poco fa hai dato una precisazione, hai parlato dell'alternata, e la Edison aveva la continua, no, l'alternata ce l'aveva fatta Tesla, e una cosa, ho parlato con un amico che mi stava, un amico, un cliente d'officina, mi ha parlato della corrente continua, e gli attraversamenti del collegamento dalla penisola alla Sardegna, anzi dalla Sardegna alla penisola, è fatto in corrente continua, e ho fatto ma come mai? Se vuoi te lo dico per quale motivo. Non lo so, dimmelo. Guarda, è una cosa semplicissima, infatti pensandoci bene, allora sai benissimo la corrente continua c'è un polo positivo e un polo negativo, mentre l'alternata si alternano la fase col neutro, va bene per il trasporto di energia per lunghe distanze perché c'è poca perdita, anche con bassa tensione riesce ad arrivare al contrario della continua. L'oro, mi ha spiegato questo signore che si occupa di questo tipo di distribuzione, ha detto utilizziamo la corrente continua per un semplice motivo di costi, tu con un unico cavo c'hai il positivo e il mare è il negativo, per cui loro anziché usare due cavi, che costerebbe un'esorbità fare cavi che sono di diametri anche di 80, anche metro di diametro, quei cavi lì, utilizziamo un unico cavo e risparmiamo centinaia e centinaia di migliaia di euro. Infatti è una cosa semplice, ci abbiamo una tensione abbastanza alta, devono utilizzare una tensione alta per la caduta di tensione, però dice utilizzando un cavo, e chi fa il negativo è il mare, l'acqua di mare. Sì. Poi vabbè, mi è sfuggito quello che volevo dire, non so per cambiare. Niente, comunque è così. Beh, oggi siamo in due, non si affaccia nessuno, non è che possiamo sempre condurre una trasmissione con i soliti due ospiti come fanno certi, o no? Sì, ma lo sai cosa sta difendendo? Tipo la trasmissione di Piero Angela, parliamo non per vantare, perché magari diciamo tante fesserie, almeno da parte mia posso dire tante fesserie, non credo da parte tua, magari sta diventando un appuntamento quotidiano, dice dalle 18.45 fino alle 20 ci sarà la trasmissione di argomenti tecnici o scientifici curata da Roberto e da Gianfranco, chi vuole partecipare può ascoltare alla frequenza 27.075, magari diventerà così, magari noi non lo sappiamo, ma ci sarà tanta gente che si metterà a ridere, magari che qualcuno che ne sa più di noi o qualcuno che sarà anche interessante. Io spero che quello che diciamo possa essere di interesse anche per qualcuno. Avanti a te di nuovo, Gianfranco. Sì, più interessante. Speriamo di sì. Comunque le nostre sono un attimo azioni a livello, diciamo, di chiacchierata senza impegno, non è che possiamo insegnare niente a nessuno, e soprattutto non vogliamo, non siamo degli scienziati o degli studiosi. Si esprimono opinioni, punti di vista, così, giusti, sbagliati, poi ognuno si farà la propria idea. E niente, il tutto per passare il tempo, 10 minuti. Qualcuno sicuramente preferirebbe che parlassimo di radio, di tecnica, ma quegli argomenti a volte ho l'impressione che stranamente in 27 non siano molto graditi. Ripeto, può essere anche una mia impressione. Aspetta, c'era qualcuno che ha commentato, avanti che ha commentato. Questo io, come ho detto tutto, sono venuto ad ascoltarvi perché si è veramente interessante, veramente. Ah, meglio così. Ciao Eugenio, mi hai sentito? Avanti Gianfranco per Eugenio. Lo sai che io non l'ho sentito perché... Aspetta che diminisco perché c'ho uno squarcio esagerato oggi, perché c'erano... C'erano quelli di fuori che mi stavano rintronando. Buonasera Eugenio, non so se mi senti, perché io al solito sono sempre con potenze ultra basse, perché questo tipo di radio oltre non mi dà. L'hai ascoltato Eugenio, Gianfranco? Sento che qualcuno sta parlando, ma è proprio bassissimo, non so come smettere, non riesco a sentirlo. Hai sentito Gianfranco? Sì, adesso che ho tolto lo squelch lo sento, anche se c'ho, continuo ad avere propagazione. Sì, vediamo un po', accendendo, mi tocca sempre con questo accessorio, che penitenza per avere 6 watt, no 5 watt. Eugenio, adesso è successo qualcosa? Buonasera, mi hai sentito? Ho già un grido, un pignarone. Adesso sì che ti sento, però non so se tu senti a me. No, guarda, come ricezione a volte ritengo di sentire anche troppo. È la trasmissione che è un pochettino condizionata a seconda dell'apparecchio che uso, siccome gli altri sono impegnati in altre cose. Questo è un apparato terziario, se non pure un punteggio inferiore, e quindi per la 27 utilizzo questo, ecco, per non stare lì a fare tanti giri. Però io ti sento senza, per adesso senza alcun problema, se poi non spunta il solito tedesco di propagazione. No, adesso ti sento alla grande. Se sentiamo da 0 dopo 0 si è passato a 75 con tutti i 6, ti ascolto benissimo, proprio non ho nessuna difficoltà. Avanti va bene, comunque buonasera, avanti va bene. Sì, ciao Eugenio, ben sentito. No, qua lui già arriva forte. Gianfranco era superava 9,20, adesso è quasi 9,35. Tu sei 9+5, con i picchi positivi arrivi qualcosina di più. No, vabbè, parlavamo in generale, quando ci sono argomenti interessanti, per non parlare sempre delle solite cose, che magari a qualcuno può interessare, di cucina, di cucito, di cose solite, quando sono argomenti magari tecnici o scientifici. Ma a me, qualunque argomento che possa essere qualcosa di cultura, per dire, molto domani, te lo fate anche per riguardo al tuo lavoro, di cose che magari non so, chiedo a te e tu mi dai delle informazioni che possono essere interessanti, magari che non conosco. E la cosa bella quando si ha voglia di imparare e di conoscere cose nuove. Purtroppo ci sono molte persone che quando sentono queste cose preferiscono starsene zitti, spostarsi, oppure non fare commenti, oppure criticare, che è la cosa più brutta. Grazie a Dio quando c'è anche Giulio, qua si parla anche un po' di antenne, di altre cose, sono argomenti abbastanza interessanti. È inutile raccontare la storia del cane, la storia di cosa ho mangiato, di che cosa c'era ieri alla televisione, eccetera eccetera. Quello le puoi dire anche al bar sotto casa a tutti i momenti. Qua in radio, secondo me lo scopo della radio è anche per cercare di trovare argomenti tecnici, come molte volte faccio io, che vado ad ascoltare in altre frequenze dove sento veramente delle persone, degli ingegneri, dei tecnici che ti danno informazioni di cose varie e ti danno anche delle cose che per dire non conosci. Di nuovo a te Gianfranco. Anche lì vedi, purtroppo, cioè, bisogna trovare la frequenza giusta. Guarda, delle questioni interessanti le ho sentite in 160 metri, ma di lì fanno le ore piccole, perché come sai con le frequenze si utilizzano la notte. Sull'altra in 40 metri oramai c'è sempre Balame, non si capisce la massa, non è un problema nostro, ecco. È un problema di tipo di frequenza che sposta dentro di tutto di più. E poi c'è in 20 metri tutto di ex stranieri, quindi così. Si salva, siamo di 80 metri, sì, 160 metri, ovviamente sono frequenze un po' particolari, impegnative, che richiedono, se devi anche trasmettere, un po' sia di potenza che d'antenna. Aspetta, è stato un break, avanti il break. sinceramente non mi piace, è molto chiuso, a cuppa, il segnale è 9+15, però la radio sembra che stai parlando con il naso tappato, molto chiusa, non hai tonalità acute, come che c'hai un tappo davanti. C'è anche Eugenio, ti rilancio Eugenio, se ti ha ascoltato, che è quello più lontano avanti, Eugenio per chiudere Ruginito, ovvero sia Claudio da Muros. Ciao Claudio, buonasera. Strano, io di solito ci sento bene, oggi non mi è piaciuta né la radio né il segnale soprattutto. Ma la persona non mi muove neanche così in terra, come è successo? Magari se migliori un pochettino la radio un po' più alta e più aperta, perché rimane un pochettino chiusa, dai. Comunque ti tiro fuori benissimo di segnale, è chiara, abbastanza chiara, diciamo, anche se un po' cupa. Di nuovo a te Gianfra. Sì, ciao Claudio, ben ascoltato, buonasera. Sì, anch'io infatti stavo pensando che dipendesse da me, ma il tuo segnale, da quello che ricordavo, è calato enormemente, quindi sono un po' perplesso, ecco. Forse hai cambiato qualcosa, c'è qualche problema all'antenna, non so. Riprendi, Claudio. Sentire. Eugenio, una domanda a te, ti ho visto in fotografia che ti stavi addormentando sopra la motrice, ti stavi addormentando, era uno scherzo? No, non mi stavo addormentando, stavo guardando una cosa che stava gesticolando il primo ufficiale, stavamo ridendo perché stava gesticolando praticamente un ragazzino per imbarcarsi, che non capisce niente. Ok, sto scherzando naturalmente, ma col lavoro che fai tu è molto faticoso, freddo, caldo, di tutto, pioggia, neve, qualunque cosa c'è te la prendi. Una domanda adesso, continuando a parlare di altri argomenti però, le motrici cosa sono? Su che meccanica sono per saperlo? Che motore c'hanno? Le motrici dipende dalla marca, c'è il Iveco, c'è Mercedes, c'è Renault, insomma. Dipende da quale motrice hai. No, non parlo di quelli che scelgo, quelle che utilizzate voi per agganciare, come lo chiami, trattore, dai. Il trattore dici. Allora, quello ne abbiamo comprato due nuovi adesso. Quello che ho io adesso è un motore Mercedes, quello che avevo prima motore Ferrari. Sono proprio a casa al Maranello. Davvero? Sì, no, non sto scherzando, proprio se sollevi la cabina c'è proprio un motore col cavallino, insomma, comunque non serve a niente, mentre che voi con le macchine, il trattore non serve a niente. Scusa Gianfra, se sto monopolizzando, ma motore benzina o sta parlando a gasolio? No, sono gasolio, capito, sono qua gasolio, c'è la benzina, fanno uno al litro, ogni giorno io devo fare 300-350 litri di gasolio, ogni giorno. 250 litri, e quanti chilometri fai per fare tutto questo consumo? 350 litri al giorno di gasolio consumi tu? Sì. E cosa deve, dove vai? Non fai tragitti brevi tu di massimo 100 metri, quanto fai? No, 100 metri no, magari. E ogni giorno facciamo, quando siamo in Tirrenia, facciamo sono 350 metri, andare 350 metri a tornare, capito? Quando siamo in GNV facciamo un chilometro andare e un chilometro a tornare, insomma ripeto, attaccano le navi, capito? Ok, c'è stato qualcuno che vuole entrare e poi riprendi tu Gianfranco, avanti, chi chiama? Hola chicos, buonasera, mi sono appena rientrato a casa, ci sentiamo dopo che io ci ando già a mangiare, ok? Sei tu alto, però era un altro, ben sentito, tanto ce n'era un altro più basso, chi è che chiamava? Avanti, quando stava parlando Eugenio mi ha mandato portante, vai tu Gianfranco. Sì, anche io. Ciao Antonio, buona cena. No, io invece volevo chiedere a Eugenio se sei in stazione fissa attualmente. Sì, poi sì, sono a casa. Ah, ok. Niente, non ti mai ravvegliare del mio segnale che è sempre basso, perché non so se lo sai, ma io sono dietro Monte Oro, cioè il Porto Torres mi è coperto da Monte Oro in maniera abbastanza pesante, ecco. Mentre sono aperto da tutte le altre parti, a Monte Oro proprio, cioè verso Porto Torres, tutta quella zona, c'ho parecchi problemi nonostante l'altezza delle antenne. Per quello che ti ho fatto la domanda, anche perché il segnale è mezzo oscillante, ma può essere dovuto alla propagazione che ogni tanto si alza, si abbassa, è un mezzo macello. E così comunque riesco a tirarti fuori alla grande, perché ti ascolto senza problemi, non c'è nessun problema. Stavi dicendo, Roberto? No, ieri, quando ero avanti ieri, è entrato questo del Porto Torres, il sceriffo, lo conosci tu? Se è il sceriffo quello di Vecchiosa, sì. Mi pare che è possibile che si chiami Antonio o qualcosa del genere. Sì, lo conosco. Però arrivava bassino, era intorno a 7-8 arrivava, tu arrivi alla bomboletta, non so come ti arrivo io, però tu arrivi forte. E tu mi arrivi 9-5, vabbè, alla grande. Anche tu lo superi pure, dai. Non c'è problema. Ok, lasciamo un secondino di bianco se qualcuno vuole entrare, se no riprendi tu Gianfra. Sì, continuo a essere un po' meravigliato del segnale, ripeto, Eugenio lo sento, però c'è molta escursione dal punto di vista della potenza, quindi un po' sale, un po' scende, sembra quasi un segnale di propagazione. Non riesco a capire il perché, diciamo, rispetto agli altri segnali che magari bassi però sono costanti. Per quello che avevo fatto la domanda prima, Sì, ho capito. Io sono all'entrata di Porto Torres, guarda. All'entrata di Porto Torres sto uscendo, aspetta un attimo, cosa mi segna? Con 10 bassi. 10 watt che mi stanno dalla radio, quindi non lo so. Ah, ho capito. Vabbè, le solite cose strane che succedono. Ascolta, così un'informazione, giusto un po' passare di palo in frasca. Tu che sicuramente al porto ci stai quasi tutti i giorni per lavoro, ti volevo fare questa domanda. Lì ci sono tante di quelle casette in materiale prefabbricate, no? Quelle che prima ad esempio usavano anche per la biglietteria, quelle per tante altre funzioni, cioè sono piccole, medie e grandi, ma quelle lì perché sono buttate così, no? Non le utilizza più nessuno, perché non le vendono? Non so più, dove le dite tu buttate? Ora non so da quanto ci manchi tu al posto, però ripeto, oramai a parte blindato, poi non so più quelle casette lì, lo dici tu, Sì, sono, guarda, quelle casette dovrebbero essere metalliche, se non ricordo male, metalliche imbottite, no? C'hanno la finestra e ce ne sono un po' di tutte le dimensioni, solo che siccome io ci passo molto spesso lì al porto e si stanno arrugginendo e sembra che non ci abbiano nessuna funzione. E quindi la domanda era quella, perché le tengono così, se ne sapevi qualcosa. Perché quelle per farci una piccola officina o cose del genere, un coso d'attrezzi sarebbero mia, sarebbero molto utili, al posto di tenerle buttate di lì a marcire. Eh no, dentro ci sono i monitor delle spedizioni telecamere che sono praticamente, non ho capito cosa stai dicendo. Allora, un paio sono nostre che alimenti a spogliatoi così. Dipende da che nave siamo, ci spostiamo e abbiamo la varia attrezzatura, la roba lì dentro. Poi ci sono quelle che sono praticamente, poi non le possono vendere, oltretutto, perché dovrebbero fare una gara d'assalto, perché è una roba fatale. Dentro ci sono i monitor con i computer che registrano 24 su 24 l'ambattura del porto, capito? No, sono vuote, cioè attenzione. Sì, allora, io di telecamere me ne intendo un pochino e siccome le guardo sempre perché entro spesso lì in bici e vedo che almeno il 50% sono tutte distrutte, proprio manutenzione inesistente, abbandonate a se stesse, sono in condizioni penose, a parte che sono anche discretamente vecchie, poi un ambiente marino, te lo raccomando. La maggior parte sono tutte scassate, si sono rotti i cosi, i sostegni, insomma una cosa allucinante. Non stavo dicendo la stessa cosa allora, se mi hai detto che vai in bicicletta, anch'io vado in bicicletta, esci con la bicicletta ciclica, poi ne parliamo. No, non stiamo dicendo la stessa cosa perché dove sono quelle case che stai dicendo io non puoi entrare qui, assolutamente, non si fanno entrare. Non so di quale casa tu stia parlando, sinceramente. Dimmi la parte del posto che tu riesci a entrare in bicicletta. Allora, dunque, ce l'hai presente dove prima... Allora, ce ne sono un paio per arrivare dove prima c'era la biglietteria, per andare verso l'ala del porto in cui c'è la Madonnina, che adesso tra l'altro hanno sgombrato anche quel cantiere navale che riparavano le barche, adesso l'hanno tutto buttato a terra. Ecco, di lì all'ingresso dove c'è il cancello c'è già una casettina che prima era adibita al posto di guardia, e quella è tutta rugginosa. Poi un po' più avanti c'era la biglietteria, che quella è enorme, credo che fosse l'imbarco per Livorno, se non ricordo male. Comunque anche quella mi sa che oramani sarà in mano ai tuppi, giusto loro la possono usare. Poi cosa c'era? Mentre dal lato dove per intenderci ci sono i rimorchiatori in quel piazzale, di lì ce ne sono un altro paio che sono anche quelle, non so se siano usate o meno, però anche lì la ruggine. Telecamere proprio sono tutte falcidiate quella zona, ce ne sono a penzoloni, ce ne sono rotte, ce ne insomma, di tutto di più. Sono rientrato, scusate, vai Gerugia. Sì, ok, vabbè. Allora, dove sei entrato tu adesso, quelle vanno in disuso, perché tra un po', hai detto anche tu, c'era il cantiere di... Paese l'hanno smantellato perché quella banchina adesso va demolita, perché iniziano a lavorare forte, con la banchina va tagliata, devono tagliare 150 metri, niente. Quello dove attaccano i rimorchiatori, quello lo usiamo d'estate, è già l'estate, capito? Non sono chiuso, non sono proprio disuso, sono chiuso, beh poi in ambiente marino non è mai la ruggine, ti esce da un giorno all'altro. Comunque nessuna di quelle case è in disuso. Quella biglietteria che ti ho detto che c'è al lato fondale praticamente, quella è in disuso. Quella era della SMC, la nave che andava a Tolone, che non viene più praticamente. Francese, che prima avevamo la linea Porto Torres Francia quasi tutti i giorni, poi l'hanno usata. sì, ho capito. Sì, perché le telecamere da molto che le guardo, ma sono proprio strangolate. Sono tutte messe a terra, distrutte, è una cosa allucinante. Comunque, niente, poi mi dirai al prossimo passaggio, adesso passiamo a Roberto che è rientrato, quelle casette quanto costeranno, diciamo, le più piccole ovviamente, non quelle grandi, se si trovano usate, giusto perché non ho un'idea di quanto possano costare, se lo sai anche tu, Robe, sto parlando di quelle casette che vedi al porto, quelle metalliche, e quelle che credo che vendano anche di fronte al nuovo MD, quello che c'è a Fredanieda, di lì dove c'è, sì, il mercato ortofrutticolo, no, non è ortofrutticolo, scusa, quello ha il mercato all'ingrosso di alimentari. Credo che ci sia la metal, come si chiama, che non vi so tante di lì. Riprendi, Roberto. Ma tu parli di quelle casette tipo uso ufficio da cantiere che hanno indipendenti, cioè c'è tutto l'impianto elettrico dentro, il bagnetto, aria condizionata, quelle li intendi? Sì, molte ho visto che hanno il condizionatore anche, però sono, mi riferisco essenzialmente a quelle piccole, ma penso che costeranno veramente un pacco di soldi. Ma le vendono anche usate, quello lì, c'è uno specializzato ad Alghero, poi c'era quello, insomma, Grindi, quello di Porto Torres che li vendeva, c'aveva qualcosa, ma parti da qualche migliaio di euro, sino arrivare a 5-6 mila euro quando sono proprio nuove, perfette, nuovissime, però uno che c'ha una campagna, eccetera, eccetera, basta chiedere l'autorizzazione con quelle e non c'è bisogno di concessione edilizia né niente. Volevo fare una domanda a Eugenio, avanti Eugenio. Quelle piccole costano più 5.000 e le trovi da Mura di fronte Cifalda da noi, vicino a dove c'è trapasso, comunque noi ne abbiamo preso 4 perché abbiamo 4 grandi da 40 piedi grandi, ci abbiamo fatto gli spogliatoi, le voce, insomma c'è tutto, abbiamo speso circa 120.000 euro, una cosa del genere, e comunque ci vuole il progetto per quello, vabbè, non lo puoi mettere in campagna uso, perché ci vuole basamento in cemento, non è che devo mettere in cemento, ci vuole il progetto. Sì, il progetto è un'autorizzazione edilizia, si chiama, non concessione edilizia, perché tu non stai creando una muratura, lo dico con certezza perché ne abbiamo usufruito noi, l'autorizzazione si chiama, non è concessione edilizia, concessione è quando devi fare un'opera in muratura, lì sono strutture amovibili che le puoi spostare, si chiama autorizzata. No, quello che ti volevo chiedere, poco fa hai parlato di SNCM, la nave per la Corsica, diciamo per Tolone, ma non c'è più la linea, io l'ho presa tantissime volte, martedì e giovedì partiva, o sbaglio, negli altri fondali. Ecco. Sì, registrato. Sì, Roberto, non c'è più, non è vasta. Non è che non funzionasse la linea Porto Torres, praticamente è entrata come la Pirelli adesso, che ha fallito, che è stata manovrata e l'ha fatta fallire. Quindi è entrata in mano dei soci e l'hanno fatta fallire, e non c'è più. Però c'è la Corsica Ferris, adesso viene la Corsica Ferris, che fa? Porto Torres, Tolone, non fa il triangolo, Porto Torres, Tolone, Ghiaccio, Ghiaccio, Porto Torres, Tolone. Ah, quindi c'è anche, scusa, non se sto monopolizzando, no, perché io facevo Porto Torres Propriano, ho Porto Torres Aiaccio, Tolone, c'era la Ferriterranea e poi la Corsa e Caferries, quindi ci sono ancora quei collegamenti. Sì, ma fa solo la Corsa Caferries, perché è stata regina, il Calliste, qui non vengono più, non è solo Bonaparte, che era SMCM, invece c'è stata regina e il Calliste e il Porto Caldo erano mediterranei. Hanno fallito, non vedo più. C'è la Corsica Ferris, che fa Porto Torres, Tolone, Tolone, Aiaccio, Porto Torres. Ok, vai Anto. Ehi, capo, ma cosa stavate parlando poco fa di prefabbricati? Quelle casette che sono a cantiere. Ho capito. affitto, no, non ce lo vuole il progetto lì, no. Ci vuole giusto un com'è tu? No, vabbè, il progetto si fa, devi indicare la zona, devi mettere la pianta dove lo devi indicare, con e senza, e si chiama autorizzazione edilizia, non è una concessione. La concessione è quando ci sono opere di muratura. E devi fare il progettino, nel senso, c'hai già il progetto di questa struttura, quando la compri molte volte te l'hanno, se no te lo scarichi e li alleghi alla relazione tecnica, e dopodiché metti la zona, devo piantare a San Camillo per dire so per cacchio ti piace, li metti la posizione, c'è una planimetria generale per dire della zona in scala 1 a 1000 e poi gliela fai in scala 1 a 100, 1 a 200, dipende dall'estensione del territorio, e dopodiché gli indichi questo, ti danno un'autorizzazione al posizionamento di questa cosa qui ed è considerata come